Buonasera. Benvenuti e benvenute a questa nuova diretta speciale su Radio Wombato. Molto speciale. Come ogni giovedì, no, non è vero, oggi è giovedì, ma come ogni giorno dalle 19 alle 21 proviamo ad accompagnarvi in questo viaggio nelle notizie, nella presa male, nella presa bene? No, nella presa bene, negli aggiornamenti, nel tenerci compagnia, rimanere in contatto. E quindi radio contatto, fanculo al contatto, viva il contatto, i volumi schizzano, ci presentiamo, Modi, che dici? Dai, sì, forse chissà se ci avranno riconosciuti, ma secondo me sì. Modesta ad una parte e alla sua destra il reverendo Neverending. Luci soffuse stasera qua in studio. Davvero. Sessione serale. E ricordiamo i contatti, anzi iniziamo dando i contatti. wombat.noblogs.org è il vostro sito di riferimento dove trovate tutte le informazioni sul palinsesto aggiornato e aggiornatissimo giorno per giorno. Cioè, si stanno facendo un sacco di cose, o sbaglio? Fin troppe, forse? No, e comunque... comunque 13:59 AM. Chissà se funziona l'antennina. E poi il pad, questo nuovo strumento interattivo, che è pad.cisti.org/p/diretta wombat. Lo so, mi rendo conto che è un po' lunghino. Comunque, diretta Wombat, per scriverci in diretta, leggeremo. È un foglio modificabile da tutti. Scriveteci, esatto, qualunque cosa. Qui con Radio Contatto siamo pronti al vostro contatto e vogliamo i vostri suggerimenti. Grazie ai nostri potentissimi mezzi possiamo scaricare canzoni e soprattutto, cazzo, mandateci delle dediche, mandateci dei contenuti, mandateci qualunque cosa. Contattateci. E ciao, rispondiamo ai saluti calorosi. Incredibile, reverendo, io che non sono così tecnologica, mi stupisce questa così capacità di vedere in diretta ciò che le persone scrivono. Vediamo tutto quello che scrivete, tutto quello che cancellate, insultateci e vi abbracciamo a Radiospore. Anche noi. Sappiamo che siete belle. E di che si parla oggi? Di che si parla? Abbiamo un po' di temi qua dalle nostre clausure varie rispettive. E parleremo di mercati e di spesa, come fare a procurarci il cibo in questo periodo così strano. Ah, dici quelle cose che si mettono sotto la bocca, sotto i denti. Quelle cose un po' necessarie per sopravvivere. Ah, ok, beh, non a caso la spesa si può ancora fare, ma scopriremo come farla. Esatto. E poi parleremo di vari temi, varie cose che si fanno in questi giorni. Tipo cosa si fa in questi giorni? Ma secondo me si fanno tante cose in casa, che dici? Tipo lavatrici, tipo mille lavori domestici, oppure anche quelle cose un po' inusuali, tipo fare la maglia, fare la pasta, fare cose così. Diteci cosa fate in casa, fateci sapere le cose più sconce che vi passano per il cervello, perché veramente vogliamo sapere tutto di voi. Noi e il governo vogliamo sapere tutto. Quindi raccontatecelo ancora una volta. E potete anche mandarci una mail a frittole@gattini.ninja, questo nuovo dominio di gioia. Non so se lo sapevate, l'ho creata ora, così ci potete mandare anche degli audio. frittole@gattini.ninja. Mi raccomando. Quindi vai, vi mandiamo un pezzo un po' più a tema e riprendiamo subito. Sopravvivo senza motivo, prima ero gentile, ora Ebbene sì, non si sa perché siamo vivi, non lo sa nessuno secondo me, perché sopravviviamo. Eppure abbiamo bisogno di mangiare per la nostra sopravvivenza e siamo, proprio per questo motivo, siamo al telefono con Lorenzo che ci racconterà qualcosina rispetto a questo tema. Benvenuto Lorenzo. Ciao. Ciao. Oh, bene, bene che ci senti. E allora, la notizia che ci hanno dato è che a Pontassieve il mercato contadino c'è ancora, va avanti. È vero? Sì, oggi siamo riusciti a fare il mercato, un po' seguendo anche proprio le regole che sono state imposte un po' dall'amministrazione comunale. Ci siamo informati dalla polizia e dall'amministrazione per sapere se potevamo, e chiaramente anche proprio in linea con quello che è il decreto, era possibile fare un mercato contadino che rispettasse un po' quelle misure di distanza tra persone che ci devono essere e che quindi, insomma, che fosse in qualche modo tutelato. In effetti abbiamo fatto un mercato che era molto tutelato, magari nella mia opinione perlomeno, anche di come sono certi i supermercati, dove comunque le persone all'interno possono entrare molto più in contatto. Noi siamo riusciti a seguire un po' queste regole e con tre banchi per oggi, perlomeno, perché oggi eravamo comunque un numero abbastanza minimo, siamo riusciti comunque a mandare avanti. C'era un banco con le verdure, un banco con il formaggio, il pane, eccetera, e un banco con il miele. Quindi, insomma, siamo riusciti a farlo. Ma la scorsa settimana avevano sospeso? La scorsa settimana, niente, siccome il decreto era uscito il giorno prima, anche noi abbiamo visto, no, che l'intero paese sui social eccetera stava commentando male il fatto che ci fosse stato anche solamente il mercato settimanale normale. Allora abbiamo avuto un po' la premura di dire questa settimana vediamo un po', siccome non sappiamo esattamente come lo prendono le persone, aspettiamo per capire quando sarà poi il momento un po' di iniziare. E invece poi di aspettare molto tempo e quindi di aspettare magari altre settimane prima di riaprire il mercato, abbiamo deciso che comunque il mercato deve esserci, perché il mercato contadino che abbiamo creato all'interno di Val di Sieve in transizione, che è la Transition Town che abbiamo fondato qui nella Val di Sieve, deve esserci come strumento di resilienza proprio delle persone. Cioè le persone devono poter avere la possibilità anche di comprare e di supportare l'agricoltura locale e quindi avere comunque un mercato che funziona, perché l'idea comunque di confinarsi tutti in casa e comprare solamente nei supermercati è sicuramente un'idea che non può essere sostenibile, non può essere pensabile in un termine più lungo, e quindi non è neanche giusto forse non farlo subito. Quindi era importante dare questo spazio, e continueremo i prossimi giovedì a avere il nostro mercato, che sarà comunque delineato. Adesso faremo un post sulla pagina di Val di Sieve in transizione per far vedere proprio come abbiamo tenuto le misure di sicurezza, e niente, l'idea è proprio quella, cioè una situazione di crisi di questo tipo deve avere dietro comunque un ragionamento che va anche proprio sulla resilienza. Insomma, sulla resilienza del territorio, cioè sul cibo, che in qualche modo indubbiamente sì. l'orto non si ferma, e anche il contadino ha ad accampare, e se non può portare i suoi prodotti al mercato li deve vendere alla grande distribuzione e andarci sotto, indubbiamente. Quindi no, mi sembra una scelta molto coraggiosa quella che avete affrontato. Capisco che non deve essere stato semplice, ecco. No, è stato un po' difficile all'inizio anche arrivare un po' a questa decisione, ma l'idea che comunque la polizia municipale stessa, l'amministrazione comunale abbiano deciso di darci questa opportunità senza creare un problema. Oggi non ci sono stati grossi controlli, la polizia è passata ma non ci ha neanche detto niente, perché comunque eravamo d'accordo con il fatto che un mercato deve esserci, così come ci devono essere gli esercizi del commercio locale, che già in parte si impegnano, no, a portare avanti comunque un'economia molto più sostenibile, molto più ancorata al territorio, certo. Il mercato ha questa forza, quindi sia il mercato che i piccoli negozi, secondo me, in questo momento si dimostrano ancora una volta come proprio gli strumenti con i quali veramente possiamo arrivare a avere un cibo del territorio, che quindi dimostra anche una resilienza nel tempo. Certo. Sappiamo che invece un supermercato no, potrebbe fallire e potrebbe smettere di avere il cibo da un momento all'altro, e quindi non può essere un modello sostenibile. Siamo perfettamente d'accordo. Quanti banchi siete solitamente? In genere ci sono 7-8 banchi, mentre oggi, siccome alcuni banchi venivano comunque da un po' lontano, diciamo che 2-3 banchi si sono condensati in un banco solo, mentre ci sono stati in tutto 3 banchi, uno di verdure, uno di miele, e un banco che oltre al formaggio però vendeva anche, o comunque portava, i prodotti che avevamo ordinato un po' tra di noi da altri produttori che oggi non sono riusciti a venire, mm-hmm. proprio per le misure e la difficoltà di spostarsi. Certo, sì, anche noi venerdì scorso abbiamo avuto un mercato ridotto in Piazza Tasso per questo motivo, quindi capiamo. Sì, esatto, sì. Soprattutto capiamo anche l'esigenza delle persone di fare rete, più che mai in questo momento, di vedersi, di incontrarsi un minimo, di non dire solamente che va tutto bene o va tutto male, ma davvero di incontrarsi e di, beh, nel vostro caso, anche scambiare i frutti della terra. Sì, esatto, qua è stato proprio quello, cioè il fatto anche solamente di vedersi, anche se a distanza, anche se rispettando comunque tutte quante le regole, cioè il fatto anche di vedersi e poter sapere che comunque possiamo mangiare del cibo di un certo tipo, ci permette comunque anche di affrontare in maniera molto più serena. Cioè io personalmente, già il fatto che la settimana scorsa abbia potuto ricevere in consegna un po' il cibo che veniva prodotto dai banchi del mercato, mi ha permesso questa settimana comunque di nutrirmi con cibo della zona e quindi anche dare molto più un'energia positiva anche come uno si sente. Indubbiamente, sì. Indubbiamente. Ma com'è stata la reazione del paese? C'era gente? Erano contenti? Oggi non abbiamo avuto nessun problema, cioè alcune persone del paese si sono fermate a comprare, così come fanno tutti i venerdì, quindi erano molto contente. Altre persone che sapevano del mercato dai social sono venute, e poi chiaramente in confronto alle altre volte c'era molte poche persone, nel senso è tutto comunque molto spento, la gente nel paese non ci passa e quindi anche molte persone non sono venute perché non avranno visto la comunicazione abbastanza in tempo. Ora noi ci impegneremo per fare in modo che la prossima settimana le persone sappiano molto prima che ci saranno questi banchi e che quindi si potrà comunque comprare quel cibo che in genere comunque cerchiamo di offrire tutti i giovedì. Solo che ci vuole. E allora appuntamento ogni giovedì, finalmente una buona notizia da questo isolamento più totale, che niente, in Val di Sieve, a Ponte Sieve c'è un mercato di facce, di una comunità che si sta creando, dove potete trovare buon cibo e buona compagnia. Sì. Sarà, va bene allora, grazie, grazie Lorenzo, davvero. Grazie a voi. Buon lavoro, buon mercato e magari ci vediamo giovedì, chi lo sa, ci aggiorniamo. Ok. Dai, buona serata. Grazie ciao. Mille anche a te, ciao. Ciao. Infatti, la terra di Katia. Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare. Truccati, trapianti truccati, motorini truccati, che scippano donde truccate, il visagista delle dive. È truccatissimo! Papaveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto. Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po', comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando ratatatata. Se c'è la partita, il comando non ci sta, e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, vitali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma. Io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò: ti devo una pinza, ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di Pinze, viva il crogiuolo di Panze, quanti problemi risolvi. Tu spaghi Italia sob, Italia prot, la terra dei cacchi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua. Italia è viva, Italia perfetta, una pizza in compagnia, una pizza da solo, in totale molto pizzo, ma l'Italia non ci sta. Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi. E rieccoci. Eccoci. Quasi impreparati questa volta. Non so più cosa farti. Abbiamo con noi un altro ospite speciale, molto più che speciale. Per questo ci siamo distratti un attimo. Ed è ai microfoni, ed è tornato nei Frittole Studios. Sì, io. Prova. Senti sto volume. Ma riconoscete questa voce? Io ti sento. Ah, bene. Sono un po' emozionato di essere qui ai vostri microfoni, Radio Contatto. Io mi chiamo Mulo, in arte Osvaldo. E nulla. Molto piacere essere qui con voi, da voi. Io non me l'aspettavo Mulo, sì, così a gamba tesa. No, veramente sono stato cooptato. Così in sordina, forse. Ma che in sordina, mi avete rotto le palle per due giorni per fare sta cosa. E io, chiaramente, sentendo prima il mio agente, abbiamo detto di sì e eccoci qua. Ma giusto. Non perché ci vuoi bene, quindi. No, veramente siamo le solite. Cioè, c'era scritto che mi davate 700 euro per questo quarto d'ora in radio, fate voi. Va bene, sì, cioè un quarto d'ora più due giorni di cammino per arrivare fino a Frittole. Sì, chiaramente. Per bypassare tutti i controlli. Sì, esatto. Perché è da ieri che proviamo a raggiungere. Ma diciamo la verità, ero già in giro. Beh, bentornato. Tu come passi queste favolose ore, giorni, ormai sembrano quasi anni, mesi di noia. Di noia. Volete la risposta alla bugia fin di bene oppure la verità nuda e cruda? Cioè. Cruda. No, nuda. Siccome anche io ho scelto di vivere la campagna e vivere in campagna, ultimamente mi sto dedicando alla mia campagna, nel senso che e senza nulla volere o creare dicotomie e robe del genere, però c'è chi sceglie di vivere in città, io da tempo ho scelto di vivere la campagna. Hashtag resto in campo. Hashtag resto in campo, come si dice il Reve, e sostanzialmente mi trovo a mio agio in questo disagio, più o meno, cioè non senza pensieri privati che vanno verso il nord, però va bene. Diciamo che le mie giornate trascorrono esattamente come prima, salvo il fatto che non esco di casa, a meno, cioè, per solo fortuna nel campo. Ho un giardino molto ampio, esatto. Beh, mi sembri davvero un privilegiato, un borghese privilegiato. Sì, di questa cosa non me ne accorgo e mi fanno accorgere di questo appunto i miei amichetti e le mie amichette quando ci chiacchierano insieme, scopro che bla bla bla, dicono tutti, ah beato te che hai la possibilità di bla bla bla. È verissimo, solo che purtroppo non ci si rende conto, come non ci si rende conto che magari ci sfamiamo con prodotti più gustosi di altri o siamo privilegiati per tante altre cose, quindi sì, lo siamo tutto l'anno, però in questo periodo salta un po' all'occhio questa cosa, sì, noi contadini e contadine rispetto ai nostri amichetti di città. Giustamente ce la passiamo bene in questo momento. Giustamente. Beh, sì, senza voler innescare invidie, ecco. No. Diciamo che ogni scelta comporta dei pro e dei contro. Diciamolo! Quindi il nostro invito qual è? A tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori che in questo momento stanno in città, perché non vi fate vivi, interagiamo attraverso appunto i nuovi canali extraordinari della mail Bombat eccetera, un abbraccione a tutte i bombati, le bombate, non ci si sente da un po'. Ma però, se si fanno vivi poi cosa gli dici, mulo? Cosa gli dico? Rispondo a tutte le domande in diretta e poi ho un grande annuncio da fare. Ok, quindi giocatevelo come volete voi registi. Allora, intanto ci arriva una mail a frittole@gattini.ninja. Ed è... Scusa, il reverendo si è divertito così oggi pomeriggio, ha creato questa nuova mail. Come me la puoi ripetere a fine di... Scusa, ero abituato a radiocontatto@insiberia.net. Ma questa è radiocontatto. E questa è un'altra cosa, infatti lo so, sono qua ospite di vostro. Puoi ripeterla? frittole@ingattini. No, vaffanculo. Non lo sai neanche te. frittole@gattini.ninja esiste davvero, perché c'è scritto Marco che ha detto niente, solo per l'ebbrezza di usare questo splendido indirizzo. Grazie, che ci vivi. www.vvb vuol dire vi voglio bene. Attenzione, qua siete a big ups, un sacco di likes eccetera. E infatti i nostri ascoltatori o ascoltatrici salgono a 14 da quando c'è il mulo. 14, mamma mia, siete tantissime. Comunque sia, tutto questo appeal che il mio nome porta è legato al grande annuncio che dovrò fare dopo. Alla fine. Allora, dato che questo è Radio Contatto, io volevo raccogliere musica e dediche come nelle migliori radio commerciali. E tu, ho YouTube aperto, cosa ti viene in mente? Cosa vuoi ascoltare direttamente dalla tua adolescenza, mulo? Dalla mia adolescenza? La prima canzone che ti viene in mente? Della mia... No, incredibile. No, questa non l'avevo preparata affatto. Dalla mia adolescenza? Ma no, anche dal tuo intimo. Voglio i Linkin Park. Va bene. Quella... Non so il titolo. YouTube ci suggerisce In the End. Sì, quella va bene. O Numb. Non so. Forse quella. La mia adolescenza, Numb. Allora vi racconto sta cosa. Io frequentavo il liceo, sito in località, e dovevo prendere il treno ogni mattina. Io mi ricordo la mia infanzia, che uscivo nella nebbia, ok, con la giacca di Pyle e nella tasca un lettore CD con dentro questa canzone. Oh, che romantico il mulo oggi, eh? Proviamo a farla partire. Un lettore subito. CD, hai presente il lettore CD quanto è grosso? Cioè non era il cellulare, era un lettore CD. Avevi delle tasche molto grandi. Avevo una tasca molto grande e ciucciava un sacco di batterie, quindi un sacco di soldi. Dai, silenzioso. Dio boia. No. Reverendo. Vabbè, scusate. Regista, fa un sacco di cose insieme e non c'ha i miei Linkin Park. Ma qui la nostra connessione... La connessione va benissimo, è il computer che si impalla. Cosa è il successo, reverendo? Essendo responsabile di Inter, si... Oh, allora, Era questa. Guarda, 10 secondi fa sarebbe stato perfetto, però adesso è comunque meraviglioso. Funziona, lo manco io che gli funziona. Terribile, Mulo. No, io chiedo scusa perché... grazie, Mulo. No, è bellissimo il viaggio del tempo, però mi dispiace aver regalato questa insoddisfazione. Abbiamo perso anche degli ascoltatori. No, sono riaumentati appena finita la canzone, effettivamente. Apposta. Miracolo. Così a 200.000 pezzi che conosco, questo ho scelto, quindi... Beh. Va bene. Ciao, Andrea. Ciao. Ciao. Ciao. Noi stiamo bene, tu? Io anche, guarda, io sono, ero una persona divisa tra campagna e città, con l'ufficio in città e vivevo in campagna, e quindi ho dovuto prendere una scelta in queste settimane e sono su in campagna. Beh, come darti torto, e quindi anche tu resti in campo? Anch'io resto in campo. C'è campo, no. C'è campo. Oltre che, beh, facendo un po' l'informatica, è importante anche non perdere la connessione. Raccontaci, infatti. Ciao Andrea, sono l'ex Mulo, adesso ho un altro progetto, ma ne parlerò dopo. E volevo sapere come stavi, sì, e se ti sentivi più prigioniera o più svagata. Ma beh. No, vabbè, un po' un momento che ci sentiamo un po' tutti prigionieri, credo, anche un po' per le nostre, sì, proprio insomma, no, per le nostre possibilità di movimento. Però anche dai messaggini, no, che mi arrivano dagli amici in città, mi rendo conto di essere privilegiata di essere su in campagna, perché posso rispondere a tutti, cioè sentendo gli amici giù che mi dicono sono in appartamento da solo, non vedo nessuno, esco una volta ogni 3 giorni a fare la spesa. Io gli dico, no, guarda, io invece sono in microcomunità, abbiamo deciso un nostro sistema di cioè abbiamo deciso che le nostre relazioni strette sono relazioni strette, quindi cioè le nostre due case dove stiamo in campagna, cioè continuiamo a vederci, a mangiare insieme, perché proprio siamo due case attaccate l'una all'altra. E poi, e quindi diciamo sì, che per i primi giorni c'era un po' il coordinamento di mettersi d'accordo su qual era il nostro standard di contatti con l'esterno. Adesso siamo affiatati fra di noi. Affiatati nel senso vi siete contagiati a vicenda? Alitati. Vabbè, no, noi abbiamo deciso, cioè se uno di noi la prende, è chiaro che la nostra comunità, micro comunità, la prende tutta, quindi abbiamo deciso un po' di il nostro sistema di stare isolati, però siamo isolati dal fuori, però noi dentro siamo tutti insieme. Ok. Sì, e quindi è una cosa che viene molto invidiata dagli altri giù, e infatti è un po'... parlandocene, no, con gli altri che dicevano vedi che mi sfottevano dicendo mi devi farti un'ora di macchina, adesso ti sei fatto, cioè mesi fa, no, sei fatto una serata in città, adesso ti devi fare un'ora di macchina per andare a casa in campagna, ma sei pazza, che sbattimento. E invece sì. Ora scatta l'invidia, e ora serata in campagna. Sì, esatto, ora poi comunque siete in balotta tutti su, sì, la nostra microcasa sì, ma che fortuna, ma in realtà non è proprio fortuna. Brava, perché non è proprio fortuna, perché uno se la costruisce piano piano e magari se la costruisce con tante rinunce, alla serata, alla birretta, all'attività fuori, però ecco, quando succedono queste cose straordinarie tu fai scopa, nel senso che tutto quello che era rinuncia prima diventa quasi appunto materia di invidia ora. Questa cosa qui è strana, specie coi compass, le compass in città, come ci si relaziona in maniera, voglio dire, non sarcastica né troppo appunto invidiata? Niente, così. A suon di bestemmie? A suon di bestemmie. Quello sempre. No, poi ci si sente quotidianamente, cioè via remota. A voi che sensazione fa la connessione, il parlare con le persone remote? Cioè io sto lavorando con persone a distanza ed è molto strano quel punto, perché anche le persone che hai vagamente vicine, cioè che sono a Bologna, adesso si è annullata la distanza, cioè mi è uguale stare a chiacchierare con uno che è in Messico o è a Bologna. Esatto. Sì, anch'io ho pensato questa cosa sentendo la mia amica che poi sta a Roma, non sta lontano, però ci siamo sentite su Skype come se fosse veramente lontanissima, e come mia madre che invece sta in città qua. Ma sì, devo dire che fa strano. Poi paradossalmente sento di più le persone lontane, anche perché magari hanno meno da fare, però ecco, me ne sto comunque un po' fuori in tutto questo, io personalmente. Però devo dire che questa cosa crea problemi di altro genere nel banalmente, appunto, uscire non si può fare, gira il cazzo anche a noi. Nel campo sì. Sì, però manca tutta quella, diciamo, fisicità, corporeità del vedersi, che ti puoi sentire quanto vuoi, però tramite uno schermo, tramite una cornetta è diverso. Sì, abbiamo i vicini più lontani più vicini. Esatto. Ma senti, ma ci racconti qualcosa di Campi Aperti, come dato che credo che abbiate avuto qualche problema anche voi con le consegne, con i mercati, come vi siete organizzati? Allora, c'è tutta una discussione in atto, perché la prima cosa è che noi siamo un gruppo grande e quindi il metodo assembleare tutti insieme è impossibile, non lo stiamo praticando, è impossibile da praticare in questo momento, però stiamo mantenendo la cosa di lavorare in gruppi, in tavoli tematici, e facendo per lo più riunioni su, usando un software open source che è Jitsi, installato su server autogestiti, e ci stiamo basando su MyForce, che è una cooperativa al di là dell'oceano, e su autistici e su Disroots. E quindi ci stiamo trovando così, stiamo lasciando anche il canale aperto, che così, e ogni tanto c'è la gente, che c'è qualcuno che ha tempo e fa capolino lì. Ma dire, ah, il canale di Mumble intendi? No, il canale di Jitsi. Ah, Jitsi, ok. Per sì, me parlate un po' Jitsi, arabo, eh? vuoi dirci un link un po' più preciso, Andrea? Ah, beh, tipo meet.myforce, quindi Mayforce, primo maggio, .org, e, che è di una cooperativa un po' grossa americana, e che ha una buona banda, e puoi andare lì, e banda connessione, e puoi andare lì ad aprire una stanza. E quindi una stanza di conversazione, di video chatting, e quindi noi ne abbiamo alcune attive e in cui ci troviamo come gruppi. Poi adesso, per esempio, tipo abbiamo visto che abbiamo provato a fare riunioni come un tempo, e tipo adesso stiamo portandoci al modello, no, magari facciamole più spesso ma più brevi, perché ti si fonde il cervello. Ok. Però, sì. Però riuscite comunque a fare il vostro lavoro, insomma, le piattaforme aiutano. Sì, nel senso che anche la stagione ci sta un po' aiutando, nel senso che al momento che è il cambio stagione, quindi c'è il calo, cioè stanno finendo i prodotti invernali, e fra due settimane ci saranno tutti i prodotti primaverini, quindi ora abbiamo un attimo di tempo anche per pensare, no? E pensare a che modelli, eccetera. È stato tentato uno in queste, con, beh, appunto ci sono anche critiche, commenti, eccetera, che è stato quello di fare la vendita online, che oggi ho avuto il primo esperimento, ma è di consegna a casa, che però abbiamo visto che è molto molto molto molto pesante, ecco, da fare, cioè proprio prende anche molto tempo, e quindi anche un rincaro sui prezzi, queste cose, e poi c'è un problema di priorità, anche perché c'è, cioè, di rispettare la relazione, cioè aprire una vendita online è il problema che l'apre a tutti, cioè è un problema, un rischio, eccetera, in un momento in cui c'è molto più domanda che offerta di prodotti nostri, e quindi è un po' un problema, perché sì, non, cioè, ci rendiamo conto che non ha proprio, è una cosa che dobbiamo risolvere proprio per la prossima settimana, che in però questa prima ondata non abbiamo saputo come gestire una vicinanza di chi era già in comunità, diciamo, nella nostra comunità, perché Esempi Aperti è comunque comunità sia di produttori che di coproduttori, i coproduttori, certo, sono i consumatori. E dici, non è stato semplice, cioè, capire subito come fare, come muoversi, anche stare vicino alle persone più vicine, paradossalmente? Sì, e poi ci piange il cuore, no, di non avere potuto soddisfare molte persone che non hanno fatto in tempo a prendere i prodotti che c'erano. Ah, ecco. Adesso, lunedì, ci si riproverà. Ci vediamo un attimo. Ho capito, insomma, vi state un po' riassestando. I mercati sono chiusi, e quindi poi c'è, da un lato, la preoccupazione dei prodotti, della produzione, che fra un po' ci sarà, e dall'altro lato c'è la preoccupazione di lasciare tutte le compagne e i compagni in città senza il cibo buono di Campi Aperti. Certo. Sì, non è una cosa da poco. Abbiamo appena intervistato un nostro compagno che stanno mantenendo aperto un mercato a Pontassieve, ed è già una gran vittoria per noi e per i contadini locali. però siamo alla ricerca di nuove idee, soprattutto anche come rete Jérôme Laronge. Sì, nuovi metodi per riuscire a raggiungere comunque le persone con i nostri prodotti. Fateci sapere. Vuoi dedicare una canzone a qualcuno, Andrea? Mi trovo in un campo, quello musicale, in cui sono proprio una gnubba. Va bene, sì, va bene. Queste domande così, senza vabbè, preparazione. Dai, scusa, ci sta un pochino. Ma va bene, hai qualcosa da aggiungere? Vuoi salutare qualcuno? Questa è Radio Contatto. Sì, te l'abbiamo svelato solo ora. Questa è Radio Contatto. Lo so, vi ascolto. Evviva. Cavolo, tutti gli spazi autogestiti del mondo. Ti salutiamo, va bene, te li salutiamo. Le comunità che si auto-organizzano e che si sentono vicine in questo momento in cui siamo tutti un po' lontani. Sì, tanti abbracci e baci. Allora te le salutiamo, Andrea. Grazie. Il mulo saluta. Se n'è andato in questo momento. Ha detto torno subito, che sarà vero. Bacioni, continuiamo con sta diretta, vai. Grazie. Buona diretta. Grazie. Ciao. Mille. Buona serata. Saluta siamo tutti quanti. Siamo in campo. Sempre. Evviva, sempre, sempre. Ciao. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Sono cavati anche i loro ascolti, incredibile. E cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Ma invece no. Un'automobile passa e una mosca vola bassa. Mi ronza, gira, ma sbaglio la mira. Vorrei cercare qualche cosa da fare fuori e camminare senza orgoglio, grazie a rubacuori. Ma io come Giuda so vendermi nuda. La strada conosco, a tirarti nel bosco, a tirarti nel bosco, a tirarti. Voci di strada all'orecchio, tutto è poco eccitante. In questo inverno colore, caffè nero bollente. Ammazzo il tempo così, ma scapperò via di qui, da questa casa galera che mi fa prigioniera. Con gli occhi chiusi a mille miglia per conto mio, odio la sveglia che mi sveglia. Oh mio Dio, ma io come Giuda so vendermi nuda. Da sola sul letto mi abbraccio, mi gusto malinconico, digiuno senza nessuno. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato ormai da un sole paziente, che brucia dentro di me, che è forte come il caffè. Un pomeriggio così, ma no, non voglio star qui. E poi mi fermo per guardarmi un istante. Le smagliature della vita sono tante. Un ballo in cucina e sono ancora bambina. Un pranzo da sposa, butterò giù qualcosa. E questa voglia che non passa mentre dentro bussa. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho. torniamo, non abbiamo bisogno. Di cosa non abbiamo bisogno? Non abbiamo bisogno delle papille gustative per capire che a fettole bolle in pentola qualcosa di goloso. Ah, si sente dall'odore. Si sente dall'odore, c'è un odorino in radio che mi lascio. Arriva gente, suonano telefoni. Che cazzo succede? Reverendo? Tutti vogliono contattarci a Radio Contatto. Oddio. Ciao Fioi, con un ciao Fioi si presenta qui. Che sta succedendo? Che sta succedendo? Beppi, si è introdotto un Beppi Manin che non trova una sedia. Vieni in mezzo a noi. Sei precipitato in diretta. Anche tu dopo questi due giorni di cammino ininterrotto sei giunto a Frittole? Sì, ce l'ho fatta finalmente. Un grande saluto a tutti quanti, raga. C'ha ancora il fiatone, Beppi. Sì, è vero, ti si aspettava per le 18, però meglio tardi che mai, come direbbero certi. Allora, radioascoltatrici, radioascoltatori, siete in calo. Io sono mancato 7 minuti in diretta e voi siete scesi a picco a 12. Questa è una questione di lunghezza dei piselli. Per favore, risalite a 16 immediatamente, grazie. È il tuo appeal. No, calo a 11 ulteriormente. Cazzo, qualcosa non va. Va bene. Se deve passare il tempo dobbiamo un attimino rialzare il ritmo della trasmissione. Eccoci qua in diretta. Sono le 19.59 e questa è Radio Contatto sul 13.59 AM. Visto che so ancora fare questo mestiere, lo reverendo. Vede che hai studiato. Sì, grazie. Sento molto dire che manca la presenza della mia voce, ma a dirlo sono, ahimè, i miei stessi amici. E quindi questa cosa non ci credi assolutamente, non si fida, però io vorrei ringraziare una persona in particolare che ha scritto 8 mail in 2 minuti e quindi raccontiamo come una sola. È il grandissimo Camicia, il mio atrio destro. Se io ho un atrio sinistro lo posso riconoscere grazie alla presenza di un atrio a destra, ed è Camicia. Io ti voglio un bene dell'anima, so che sei rinchiuso a Baita anche te, e ovunque tu ci stia ascoltando interagiamo. Salutiamo Camicia. Ciao, con tantissimo amore. Mi manchi a bestia, mi mancano quei momenti insieme. Sei bello. Torneremo insieme prima o poi tutti. Comunque, prima di introdurre e passare la parola a Beppi Manin che ci racconta i cazzacci suoi, io avevo un annuncio da fare, se posso. Silenzio. Addirittura. Più che un annuncio è la motivazione della mia assenza in questa stagione di Radio Contado. Ho finalmente trovato il motivo della mia assenza, appunto, che si prolunga, appunto. Le raga di Anali. No, non è legata a, per fortuna, alla mia salute personale, che ringrazio tutti dell'interesse, è abbastanza buona. È legata alla mia nuova carriera. Io sto componendo un singolo. Oh cazzo. Ok, no, per favore, un attimo. Io sto componendo un singolo che avrà l'obiettivo di sfondare il mercato della musica, ovviamente, e rendermi ricco oltremodo, e appunto attraverso questi soldi poi fare due o tre cose benefiche di copertura e poi a mia volta i cazzacci miei. Aspetta, devo digerire la notizia. Yo. Quindi fine esclusivamente commerciale? No, questo è il secondo fine, c'è un fine iniziale proprio che ha mosso l'animo mio, era appunto quello di esprimere una vena artistica attraverso una cosa che sfiorasse il sublime. Ovviamente sto componendo questo singolo da settembre, ok? Ho scritto un paio di righe e ho in mente la melodia. Però io vi prometto che qualora questo sforzo creativo vedesse la luce, io verrò a cantarlo in diretta radio, ok? Non so in quale sede. Sì. Questo è l'unico appuntamento gratuito che offro. Dopodiché saranno chiaramente palate i soldi per avere la riesibizione. Insomma, qualora questa cosa, con il maestro Tommaso Speranza, che ringrazio perché mi aiuterà ad armonizzare tutto quanto. E ciao Tommaso, salutiamolo. Ciao Tommy. Maestro Speranza. Io non ero impreparato, lo sapevo che qualcosa stava bollendo in pentola, ma non pensavo fosse così grosso. Sì, ha una portata incredibile questa notizia, me ne rendo conto, e volendo proprio esplicitare tutto, questo pezzo si intitolerà Tempi Moderni. A Attenzione, sappiamo moderni. Quasi tutto di questo. Però c'è un futuro. Ultimissimo appunto che nelle ultime due settimane, ahimè, la mia furia creativa ha incontrato un limite grosso, legato ovviamente a questo Covid-19, al suo allargamento sul territorio, perché in nessun modo la mia poetica vorrei fosse influenzata da tutta questa storia, perché la genesi di questo concetto esistenziale che sta rinchiuso in questo singolo è aliena al fenomeno Covid-19, proprio non c'entra un cazzo. E quindi nelle ultime due settimane, ripeto, ho avuto un attimino di freno creativo, perché non voglio a mia volta sporcare la poetica con questa faccenda. E quindi ricomincerei a comporre quando tutto ciò sarà finito. Quando riuscirò a trovare la mia dimensione, il mio ritmo, il mio equilibrio indipendente da questa storia. E, insomma, credo che, nonostante, ripeto, sia diversi mesi che io non sia presente per un altro bel periodo, non credo di poterci fare. Se da settembre ora hai scritto due righe. Guarda, non so questo singolo quanto sarà. Sì, non sei esattamente prolifico. Insomma, no. Deve spaccare. Cioè. No, perché ogni parola deve essere nel tassello giusto, capito? C'è un equilibrio da rispettare. Ah, non lo mettiamo in dubbio. È un lavoro, a dire il vero, immane a tratti. Quindi. Siete curiosi? Siete curiose? Scrivetelo a frittole@gattini.ninja oppure andate su pad.cisti.org/p/diretta wombat e ditecelo. E ditecelo. Ma comunque ci hanno già scritto che godono mulo, godono grazie a te. No, non esageriamo, grazie. Chiuderei questa parentesi. Io sono veramente emozionata, doveva essere una diretta quasi informativa, invece stiamo sparando un sacco di minchiate, quindi manderei. Avevi dubbi? No, non avevo assolutamente dubbi. Manderei apposta, un brano che ci hanno richiesto e poi continuiamo mulo. Vai. Con l'esclusiva. Let's go. Bad girl is a girl who wants you to see her name, her game and her ability. A two gold teeth and gold cash money. The guys on the street, she think they act funny. She got Cazelli's and a beat back too. Bad girl, I wanna beat with you. Con le tette non smette, le unghie sempre più lunghe, affilate come la mette, metriche cosmetiche, fai ballare tutto quello che comprimi nella mini, vestitini o robe ampie, butto un occhio in giro se ci sono bei bambini, nonchalante alla conquista, una parte della festa in pista, se c'è il DJ che mischia la giusta dose di R&B con il rap, scatta la riunione alla toilette, un sabato infamate, complimenti, smazzo di assorbenti, ombretti, rossetti, senti quello che non sai ma un po' che te l'aspetti. Fin dall'inizio doveva andarci piano con quel tizio che non aveva un nome, tantomeno l'indirizzo, per togliersi lo sfizio, la tipa adesso ha una pagnotta in forno come il rizzo. Forse per qualcuno resterà il dilemma, ma per quel che ci riguarda noi speriamo che sia femmina. Dimostra alle mie amiche quanto sei disinvolto, invece di scambiare rime come figurine, è il momento di far fare un giro a queste signorine. Lo scopo del gioco è di fare un poco di moto, ma non è detto che poi dopo ti scopo. Dipende un po' da come ti comporti, che sera adesso è tempo per la festa. Sarà servita qualche cosa aver pompato come un disperato in palestra. Innesca questa carica esplosiva, ti tasta a quattro mani come Shiva. Attacca il tuo vagone a sta locomotiva, andiamo alla deriva. Nostromo, qui c'è la pina, ormai lo sai qual è il mio scopo. Cosa aspetti ad invitare questa? Adesso lascia fare a questa. Oh,

ecco. Sì, senza... sappiamo bene che il finale di questo Enter Sandman è molto bello, però purtroppo non ci piaceva l'idea di farlo sentire tutto in linea al nostro carissimo amico Bricco Baldo, perché ha risposto. Cui... Senti? Ciao, sì. Brick. Sì, buonasera a tutti, tutte, ascoltatrici, ascoltatori, lo staff di Frittole, tutti. Incredibile. Che onore averti al telefono. Sì. Un onore per me. Sì, Bricco. Come va? Tutto bene? Da Dio. Non c'è male. È sempre troppo poco il tempo. Questo è vero. Verissimo. Che visti tempi, è detto così. Bricco, come vecchi tempi, come stai? Cosa racconti? Che dici? Stai bene innanzitutto? Bene, sì, sto bene, sono... sì, sto bene, un sacco di cose da fare. Che stai facendo in questi giorni di chiusa? In questi giorni di chiusa ho iniziato a fare un orto, in verità, nella mia quarantena. E quindi questo porta via un sacco di cose, e poi effettivamente Radio Wombat in questi giorni è più attiva che mai, e il carico di cose da fare sono tante, quindi anche diciamo che questo tempo libero è stato molto bene su questi due fronti principalmente. Quindi sei fuggito dalla città anche tu? Sono fuggito dalla città anch'io, e devo dire che è un... la vedo la città da lontano, la vedo in lontananza, e è più silenziosa che mai, non c'è l'enorme cappa che solitamente la avvolge, e si percepisce un ritmo che io non avevo mai visto nella mia vita. Aspetta un attimo, completa la frase come nei giochi di enigmistica, cioè non c'è un ritmo che avessi mai visto in passato, e questa cosa è molto? Questa cosa secondo me, almeno io la percepisco come una cosa molto naturale, nel senso come un po' un ritorno da parte di tante persone, una comunità magari, a dei ritmi più adatti all'essere umano, ecco, mettiamola così, nonostante il divieto di uscire nella prima campagna fiorentina, io vedo che ci sono molte persone che si fanno le passeggiate in solitaria, e quindi in un certo senso, seppur nella solitudine, ecco, perché però c'è il territorio viene vissuto in modo diverso, ecco. Certo. Con un approccio diverso, con dei ritmi diversi, e quindi io spero anche che, ecco, la mia speranza è che questa cosa faccia un po' riflettere in futuro, e quando usciremo da questa situazione che ci si ricordi di com'era avere tempo da dedicare un po' a se stesso, ai propri pensieri e al contatto con ciò che ci circonda. Ora è chiaro che questo, ad esempio, io vedo lo spaccato della prima campagna fiorentina, però posso anche sicuramente dire che nella città invece è diverso, non lo so, me la immagino un pochino più inquietante la sera, una città che è stata progettata e si è evoluta sul movimento delle persone, sulla superiorità delle persone, e immagino che questo, insomma, che questa cosa dia un po' uno spaccato diverso, però ad esempio magari in quel caso può essere, in quel contesto può essere l'occasione per ripensare invece a quanto è importante invece avere una città che sia viva, che dove vi siano degli spazi pubblici, diciamo, a volte nella privazione si apprezza veramente quello che poi abbiamo quotidianamente sotto mano, e che spesso ce lo facciamo anche sfuggire per logiche più o meno complesse e per meccanismi più o meno capitalisti, però ecco. Questo, quindi poi magari voglio vedere il bicchiere mezzo pieno e mi sto sbagliando, però no, di sicuro sbagliare non sbaglio nella tua analisi. Certo è che non vogliamo aprire la forbice fra chi se la passa bene e chi se la passa male, dicendo che tutti quelli che stanno in campagna automaticamente hanno vinto. Semplicemente quello che dicevi tu anche dal mio punto di vista in queste giornate me ne sono accorto centrale, cioè che cosa può rimanere dopo il virus, dopo il passaggio del virus, nelle nostre consapevolezze, considerato il fatto che c'è un lato un po' più umanistico, cioè umano e personale, di vita fatta di rinunce, uno riscopre anche la bellezza di la libertà di dire faccio meno di tutte queste cose, cosa rimarrà poi ce lo chiediamo, però soprattutto una cosa che ci preme raccontare è che recuperando il tempo, recuperando certo il tempo salvato dal lavoro, quindi per molti sarà un casino, però di sicuro recuperando il tempo, recuperando un attimo la libertà di prospettive, una persona diciamo che recupera anche un po' se stessa, ecco, vogliamo dire così. Sì, esatto, secondo me, io volevo anche un attimo precisare, dicevi non si può dividere il mondo in chi sta in campagna sta bene, chi sta in città e sta male, o almeno se lo facciamo lo dobbiamo fare nella prospettiva di in quanto io penso che in casi di estrema difficoltà come questo il fatto di stare bene o di star male è la possibilità di il fatto di avere determinate tipo di delle risorse, cioè nella campagna ci sono delle risorse che fondamentalmente in città non ci sono, ossia puoi fare un orto e se a un certo punto i supermercati sono vuoti sei sistemato, e quindi secondo me il passaggio da fare è quello di dire che sì, magari ci sono le differenze, però allora a quel punto la palla passa realmente a quelli che stanno nelle campagne, passa davvero alla condivisione di quelle risorse e di far sì che quelle risorse possano essere il mezzo per ricreare magari una comunità che si è disgregata in un momento di particolare difficoltà. Hai ragione, e infatti sono tutti colpiti a bocca aperta i miei correligionari qua in regia. Avete qualcosa da dire? No, quasi senza sto guardando in basso. No, volevo anch'io c'avevo una riflessione da fare, sempre partendo da quello che dicevi prima, no? Cioè del diverso sentire un territorio attorno a noi. Cioè, effettivamente, io penso che sia molto normale che sentiamo questo, chiaramente, ma perché è cambiata proprio la fruizione del territorio, e nel particolare il territorio si è svuotato sia in città che in campagna di tutte quelle logiche di fruizione che sottostavano a un fine soprattutto commerciale, cioè gli spostamenti e tutto quello che succede in questo territorio, lo stesso tuo atteggiamento quando non diventa più anche una strada, non diventa più un luogo da attraversare o da usare per andare al lavoro, ma diventa qualcos'altro perché a un certo punto un determinato tipo di logiche smette di insistere su questo territorio, chiaramente tutto diventa diverso, e questo non saprei, cioè è difficile definirlo se è un bicchiere mezzo vuoto, un bicchiere mezzo pieno, sicuramente è un qualcosa che stimola tutta una serie di riflessioni, spero che le stimoli a tante persone. Il rischio, secondo me, però, in questo momento, soprattutto è quello di sentire invece che quello che ti circonda è soprattutto ostile. E questo ovviamente io penso che sia un rischio che c'è adesso, perché comunque anche la paranoia, che poi si può trasformare in ansia, che poi si può trasformare anche in angoscia, è quella di percepire un rischio veramente grosso, è una cosa pesante, sì, per molte persone. Sì. E sotto questo aspetto, secondo me, una cosa molto che sta influenzando tantissimo in questo momento è anche la presenza delle forze dell'ordine. Cioè, tante persone, comunque, anche se magari molti normalmente non temono particolarmente le forze dell'ordine, però è comunque un rischio che viene percepito, quello di incontrare, di essere fermato e di poter essere denunciato, che viene percepito esattamente come viene percepito il rischio di essere infettati da un coronavirus. Ovviamente non sono paragonabili, ma è un'altra cosa che in questo momento, secondo me, sta agendo molto, in maniera molto forte. Assolutamente no, e fra l'altro questo è un tema lo dico a voi, ma lo dico anche a ascoltatori e ascoltatrici, è un tema che io mi sono riproposto dentro di me, di cercare di affrontarlo in una delle prossime dirette di Radio Wombat. Sono usciti degli articoli anche su questa cosa qua, in particolare mi è capitato ieri di trovarmi di fronte a un articolo di Wolf Bukowski, che l'ha pubblicato su Giacco, che parla proprio di questo, e lui fa un po' il parallelismo, cioè lo mette un po' a confronto con tutta la questione del decoro e della criminalizzazione del degrado, e quindi la militarizzazione delle città, dei territori. Sì, guarda, però io provando a preparare la puntata di oggi, la prima cosa che mi sono scritto è proprio da quell'articolo di Wolf Bukowski di cui parli, è la diffusione della paura, non il contenimento del contagio, è la prima cura praticata dalla classe politica sul corpo sociale, è la prima cosa che mi sono scritto per oggi. Esatto, sì, purtroppo questa cosa io la percepisco, anche nelle persone con le quali parlo, anche si vede sui social questa cosa qua, e è un meccanismo, mi sembra, anche molto complesso, un po' da scardinare, perché ti dici, va bene i militari nelle strade, no, però c'è tante persone che si dicono, vabbè, però le persone allora fanno che cazzo vogliono, e quindi è un po' complesso, è un discorso articolato, e quindi superarlo richiede, secondo me, una notevole riflessione e una notevole anche consapevolezza. Indubbiamente. Quello che ci sta. A tal proposito, se posso, vorrei anche ricordarti, gli ascoltatori e ascoltatrici, che Wolf Bukowski ha anche scritto proprio un libro su questo argomento, che è La buona educazione degli oppressi, che è uscito, mi sembra, l'anno scorso per i tipi di Allegre, che è sicuramente una lettura che mi sento di consigliare a tutti quelli che, che sono a casa adesso. Assolutamente, io lo ritengo un po' una piccola, un libro molto prezioso, sì. Davvero. Sei un grande, Bricco, sei un grande. E quindi... Dai! Senti, nel salutarti, una domandina così flash, cosa fai domani mattina? Domani mattina... domani mattina devo finire di mettere appunto l'orto, devo finire di mettere l'irrigazione, c'ho ancora un po' di cose da seminare, c'ho un po' di roba da sistemare, c'ho tutte le cose della radio, da riprendere tutte le tracce, sì, riaggiornarmi sulle mail, quindi, senti, mi sento di darti questa dritta, vedi un sacco di vecchini a giro, anche perché è periodo di asparagi. Quindi fatti furbo e cerca la sparagiaia più vicina a casa tua, perché sennò te li ciucciano tutti, ti fai una frittatona da paura. Ah, guarda, allora la principale persona che si accaparra tutti gli asparagi nella zona è la mia nonna. Oh, grande. Vabbè, raccomandato. E quindi io, sei un raccomandato. Meglio, sono passato un'ora fa da casa sua e mi ha dato un mazzo di asparagi. Quindi... Sei un raccomandato. Ammanicato. Davvero ammanicato. Vergognati. Senti, mia nonna è una di quelle persone che si fa tutti i giorni la passeggiata e esce tutti i giorni con uno zaino, e magari quindi un giorno la trovi con una bracciata di asparagi, il giorno dopo la trovi passata all'altro. 3 o 4 giorni fa aveva uno zaino pieno zeppo di erbe di campo, eccetera. E quindi quando ci sono i funghi, lei c'è funghi, un adesso c'è periodo, una super nonna. Super nonna, falle fare, mi raccomando, un canale YouTube. Sì, certo. Magari un giorno la chiamiamo, ci racconta qualcosa. Magari un giorno la possiamo chiamare, è una grande esperta di erbe spontanee. Io sono una grande fan dei racconti delle nonne, quindi... Ora me la segno. Dai. Vai, un'ultimissima domanda prima di salutarti, che perché ho questo, sarà una deformazione professionale, ma questa curiosità mi sta rodendo dall'interno, quindi devo domandartelo. Voglio sapere che cosa hai messo in orto, cosa c'è in sto orto, cosa gli hai messo giù adesso? Allora, per ora ho messo, premetto che ho lavorato la terra, ho lavorato un po' tempo fa, però l'ho preparata, diciamo, qualche giorno fa. Quindi per ora ho messo in terra le cipolle. E uno. Le bietole e due e gli spinaci, se non mi sbaglio. Bellissimo. Oltre che complimenti, caro. Bene, tutto bene? Sì, risposta esatta. Sì, le azzeccate. Anche se ora le patate adesso, setto. Ah, le patate, bene, vedi, guarda, ma guarda, vi volevo chiamare l'altro giorno ieri in trasmissione perché volevo un po' di cose. Avrei bisogno che voi mi spiegassi un po' come si potano gli ulivi, tra l'altro. Sì, non c'è problema. E poi di semi abbiamo messo zucche, oltre basilico, prezzemolo, zucchine, piselli, un po' di roba, ancora un po' di cose. Bene, bravo, bene, bravo Bricco, che bellezza. Benissimo. Ma guarda, noi sì, siamo io e la mia ragazza, seguiamo alla lettera il sesto Caio Baccelli, lo sprologo di Brozzi, quindi... Sì. Adesso va di moda il lunario della tipa delle streghe, Maria Tule, fece una figura di merda, si chiama Annalisa De Luca, grande, ti amo Annalisa. Vai. Grazie Bricco. Bene, grazie a voi. Ciao Bricco. Ciao, un abbraccio. Grazie a voi, a prestissimo. Ciao. Ciao. E salutiamo anche la Bri. Bene. Ciao. Ciao. e questa ce la dedicava un gruppo di compagne, anzi in realtà la dedicava al governo Conte, che si sta adoperando per noi. Il governo Conte spende per noi? Spende. E siamo quasi ai saluti. Quasi alla fine. Siamo letteralmente ai saluti, cari miei, perché quello che si sente nell'aria è l'odore della cena. E quindi, noi visto che sono le 20:48 e tutti noi abbiamo molta fame, sono stato distratto, non sono lontanato. E dicevamo, passiamo ai saluti finali. Nel ringraziare chi Camicia innanzitutto. Tutta mamma Wombat, che sta facendo un lavoro incredibile, mi raccomando, continuate a seguire le direttone, sia speciali che non, su Radio Wombat, quindi wombatnoblogs.org, dai è tutta. Sì, 1359 1359, se sei confinato in città a Firenze e dindorni. E ti diremo pure di andare su lapunta.org, perché funziona. Ma non può esserci niente. Comunque si riattrezzerà per la bella stagione, sperando che arrivi presto e che le guardie non ci rompano le palle tanto. Davvero. Un ringraziamento poi anche al reverendo ai controlli. Grazie, Reve. In questa puntata speciale di Radio Contatto. Questi volumi del... Dai, non essere così severo con te stesso. Un ringraziamento alla Modesta che chiude tutte le frasi. Puntualizza sempre, senza mai troppo allargarsi. E soprattutto, per la prima volta nella mia carriera radiofonica, posso dire la seguente frase: ora diamo la linea a 8 Hz. Dopo un po' di sbobinata, è chiaro, perché comunque sia buona trasmissione a 8 Hz, però ci sarà un quarto d'ora, però dopo di noi diamo la linea a 8 Hz. Quindi rimanete all'ascolto con i programmi di Radio Wombat, sì, e una detto, bella serata a tutti voi. Ciao. L'ha detto, puoi ripetere. Sei qua solo per questo, podcast, mulo, lo sappiamo. Mandiamo quest'ultimo contributo di filo sottile noblogs.org, che è Cappuccetto Rosso ai tempi del Covid-19. 5 minuti di gioia, grazie davvero. Restate sul Wombato, sempre Wombat. A presto. A prestissimo. L'unica voce, la mola che ti spinge ad agire. C'era una volta una giovane persona che chiamavano Cappuccetto Rosso, in ragione di una mantellina con copricapo che aveva recuperato chissà dove e dalla quale non si separava neppure di notte. La mamma un giorno chiama Cappuccio e dice: «Oh, ho preparato la frittata vegana di spaghetti e i funghi impanati per tua nonna. Tiè, porta il cestino». «No, madre», disse la giovane persona. «C'è il decreto anticontagio, mica ci posso andare da nonna». «Ti ho fatto l'autocertificazione. Se ti ferma il guardiacaccia, gliela mostri. C'è scritto che porti assistenza a una anziana bisognosa e che è una cosa umanitaria e non possono dirti niente. Oh, non ti attardare per strada». Cappuccio sorrise fra sé, felice. In una casupola isolata nel bosco viveva un'altra giovane persona, con la quale Cappuccio aveva un'intesa sessuale pressoché perfetta. La giovane persona veniva chiamata Lupo perché aveva una quantità di pelo superiore di molto a quella che la gente per bene si sarebbe aspettata. Le due giovani persone non si vedevano già da qualche giorno e sbiellavano e sbavavano dal desiderio di toccarsi. Poco prima di arrivare alla casupola, Cappuccio incontrò il guardiacaccia. «Dove vai? Non lo sai che è vietato starsene in giro, che c'è la malattia? Dobbiamo essere responsabili e stare a casa». «Vado da mia nonna», disse Cappuccetto Rosso porgendo l'autocertificazione, «è tutto in regola». «Fa vedere, lo dico io se è tutto in regola». Il guardiacaccia guardò l'orologio e lesse con attenzione l'autocertificazione. Poi si fece consegnare il documento di identità da Cappuccio e chiese ogni cosa: nome, cognome, data di nascita, residenza, segni particolari, eccetera, tutto chiese. Primo, era il suo dovere. Secondo, non si fidava di una persona con quella faccia lì. Alla fine, sebbene avesse appurato che il documento apparteneva davvero a Cappuccio, chiese ancora: è malata tua nonna? Ma che, sta una bellezza, non ha più voglia di cucinare. Vabbè, per questa volta puoi andare, ma fai presto. Certo, disse Cappuccio e riprese il cammino. Bussò alla porta di Lupo e le tre ore successive furono molto intense. I corpi delle due giovani persone si accordarono e ne suonarono di belle e caldissime. Dopo l'amore, Cappuccio aveva la testa nell'incovo del collo di Lupo. «Oh, ma che ora è?» E fuggì in fretta e furia, agguantando il gestino della nonna, ma dimenticando il suo cappuccio rosso. Intorno a casa di nonna era tutto un via vai di guardiacaccia. Alcuni marciavano, altri piantonavano, altri facevano controlli, due giravano con il megafono e invitavano la gente a stare a casa per questo e quest'altro motivo. «Nonnina, sono io, sono Cappuccio!» Dalla casa della nonna proveniva il frastuono della TV. «Chi sei? Mi ha generato tua figlia, ti sono nipote, non mi fido. Te mi appesti casa, fatti vedere!» Cappuccio si mostrò alla finestra. «Ti manca il cappuccio, non mi sei nipote!» «Oh cazzo, me lo so scordato, nonna sono io!» Intervenne un guardiacaccia. «Che succede qui?» disse. Poi guardando Cappuccio: «Ah, ma noi ci conosciamo! Mi hai incontrato 4 ore fa. Che ci fai ancora in giro? Perché non hai dato il cestino a tua nonna?» Cappuccio iniziò a far fugliare. Il guardiacaccia aprì il cestino. Cibo vegano e fritto. Mica è roba adatta a una nonna. «Ci vuole il brodo di pollo. Mi sa che te hai inventato tutto per uscire e spassartela con qualche altro mostro come te. Ora ti faccio la multa e ti denuncio.» La storia per ora si interrompe qui. Non è che sia finita, ma non sappiamo ancora come possa andare a finire. Che fa? Lupo esce e va a soccorrere Cappuccio? Cappuccio finisce in cella? Il collettivo di Cappuccio la organizza una campagna di sensibilizzazione e solidarietà tipo Free Cappuccio? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che per adesso, in questa situazione paradossale, dobbiamo continuare a far circolare i ragionamenti e le idee, e presto seguiranno i corpi. Dobbiamo ingaggiare un braccio di ferro con la mentalità guardiacaccesca che permea tutto l'ambiente. Nel frattempo, buona giornata.